ascolteremo questo rientro con sigla di George Benson on Broadway, la Via del Teatro, per ben tre volte, in quanto tre sono gli appuntamenti contraddistinti all'interno della rubrica in scena di oggi, venerdì 15 settembre. Abbiamo iniziato con i giovanissimi, procediamo con i protagonisti più giovani in questo rotocalco odierno dedicato al teatro, e quindi i protagonisti, quando si parla di teatro ragazzi, la baracca Testoni Ragazzi presenta Le Storie Gravitano. È la stagione teatrale 2023-2024, è una nuova stagione Baracca Testoni Ragazzi, che sta per prendere vita in vari luoghi della città. Da ottobre a maggio programma è esteso in varie sedi, spettacoli, letture, eventi e laboratori, ovviamente coinvolte famiglie e scuole, ideati, realizzati per bambine e bambini, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 0 e i 14 anni. In cartellone 68 spettacoli, 249 repliche, di cui 4 nuove produzioni. Le compagnie coinvolte, tante, 25 dall'Italia e dall'estero, 6 percorsi per i laboratori pensati per diverse fasce di età. Anche in questa stagione sarà distribuita su più sedi, su più sale, come vi ho detto. Lo scorso anno gli spettacoli andranno in scena alla Sala Centofiori, al Teatro del Baraccano, i laboratori si terranno a Villa Pini, e la novità che vorrei citare è Ateliersi e Teatro San Leonardo, che a ottobre ospiteranno le attività del Festival Internazionale Visioni di Futuro, Visioni di Teatro. Insomma, una stagione veramente ricca, una stagione dedicata ai più giovani, l'avvicinamento a teatro, l'importanza di tutto ciò, come ho detto, poi dispiegata in diverse sedi teatrali. E appunto abbiamo in conferenza stampa raggiunto chi chiaramente ha avuto una parte fondamentale per tutto ciò, con la direzione artistica di Bruno Cappagli, per iniziare assieme con la Baracca Testoni Ragazzi la stagione 2023-2024. Anticipiamo un po' i contenuti con Bruno Cappagli per la Baracca Testoni Ragazzi edizione 2023-2024. Intanto io ho intuito una varietà di sedi teatrali, ci può anticipare qualcosa? Sì, anche quest'anno, come l'anno scorso, continuiamo a lavorare in diversi spazi, un po' per necessità, visto che il Teatro Testoni è ancora chiuso, riapriremo a marzo, fra l'altro, finalmente la sala, quindi ci ha messo in una condizione da aver per forza andare in altri teatri, ma in realtà noi ne abbiamo colto l'occasione per continuare a relazionarci anche con altri spazi, tra cui per esempio quest'anno, in occasione del nostro festival per la primissima infanzia Visioni di Teatro, andremo al Teatro San Leonardo, che per noi è storico perché la baracca viene fuori da quel teatro lì, all'inizio era il nostro teatro, è stato il primo centro di teatro per ragazzi a Bologna, e poi lavoreremo al Baraccano, alla Sala Centofiori, insomma giriamo un po' la città. Certo, una presenza estesa nella città è un filo conduttore che quest'anno avrà come temi principali? Guarda, noi abbiamo deciso di definire una stagione planetaria, nel senso noi siamo un pianeta, il teatro è un pianeta, e ci piace immaginare che il teatro abbia tanti pianeti che gli girano intorno, delle orbite esattamente, e che ci permette di incontrare diverse modalità di fare arte e cultura per l'infanzia, e quindi un percorso che procede vicino ai giovani, cosmico. Esattamente, fra l'altro. Quando si comincia? Incominciamo subito questo weekend, sabato e domenica, che faremo l'open day, che si chiamerà appunto Pianeti e che sarà un gioco teatrale per iniziare a raccontare a tutti i nostri spettatori, a tutti i bambini e le bambine, ai ragazzi e le ragazze, la nostra stagione. L'importanza dei giovani, domanda un po' retorica, però in un momento in cui una determinata fascia di pubblico sta tornando a teatro, ma che fino a poco tempo fa magari era proprio quella che mancava. In questo caso anticipiamo un po' l'età invece. Per i giovanissimi la partecipazione è costante. La partecipazione è costante, sta anche aumentando, da un po' di anni facciamo una rassegna serale pensata per gli adolescenti, e sta aumentando, e soprattutto quello che per noi è molto importante, abbiamo una forte adesione delle scuole, parliamo delle scuole medie, che sono molto presenti. I licei stiamo iniziando a lavorarci, ma ancora non è, non, diciamo che non c'è una dedica specifica, anche se la stagione al di là dell'Open Day partirà il 9 ottobre con uno spettacolo narrazione che sarà il Vaillance 2023, che è un progetto di Marco Paolini, dove ci saranno centinaia di teatri in Italia che quella sera ricorderanno i 60 anni dalla tragedia del Vaillance. What I'm feeling, but I hope you recognize what's right before your eyes. Oh, your heart should realize from where I'm dealing. Baby, I'm trying to show you that I love you. Baby, I'm trying to show you that I care. Baby, I'm trying to tell you that I need. Ripperton. Brano più volte proposto nell'interpretazione, nella cover dei Mansueto, un gruppo AC Jazz italiano. La scrittura originale, ecco qua, l'ho trovata nel mio mobilone dei CD, nel Mare Magnum di Minnie Ripperton. Grande Minnie Ripperton. Grazie per la disponibilità, Bruno Cappagli. Per quanto riguarda la baracca Testoni Ragazzi, le storie gravitano, molti termini spaziali, orbite, la forza cosmica, per una stagione che infatti ha dei satelliti che diventano protagonisti nelle varie sedi teatrali, con visioni di futuro, visioni di teatro, tutto quello che dà una fondamentale importanza per i giovani e giovanissimi. Il 9 ottobre, sottolineo come già parlato Bruno, per la baracca Testoni Ragazzi, nella partecipazione al progetto di Marco Paolini Vaillants, nel 60° anniversario del disastro del Vaillants. Primo spettacolo dopo l'Open Day imminente. Aggiungo alcuni aspetti che sono fondamentali e molto lodevoli. La collaborazione, di collaborazioni parleremo a breve con Bruno Cappaglie, la collaborazione con Arte Salute Onlus, la baracca Testoni Ragazzi continua a portare avanti il percorso formativo per persone che soffrono di disturbi psichiatrici. L'obiettivo è di migliorare attraverso il lavoro in campo teatrale e nella comunicazione, l'identità sociale, l'autonomia, la contrattualità. Insomma, questo è per un aspetto assolutamente coinvolgente e inclusivo. Un altro fondamentale, Teatro Arcobaleno, il progetto formativo sull'identità di genere e di orientamento sessuale rivolto a infanzia, adolescenza, insegnanti, figure educative, assistenti sociali e studenti dell'università. Ecco, consiglio agli adulti di partecipare assolutamente a questa modalità teatro per argomentazioni di attualità quanto mai importanti. Completiamo e concludiamo la nostra conversazione con Bruno Cappagli di la baracca Testoni Ragazzi per appunto approfondire le motivazioni di stagione di collaborazione. Collaborazioni e intersezioni con altri cartelloni. Intersezione con altri cartelloni sicuramente il Bologna Festival, Bologna Bow Festival, con i quali ancora per un'altra volta facciamo una coproduzione. Pensiamo che la musica per i ragazzi e i bambini sia fondamentale per la loro crescita, il loro immaginario e la loro visione poetica del mondo, e quindi faremo una produzione dedicata a Mozart, si chiamerà Amadè, e in realtà parleremo, chi ha dei figli lo sa, della difficoltà di una relazione tra un padre e un figlio, figuriamoci se il figlio si chiama Amadeus Mozart. Mi rendo conto, anche un po' discolo se vogliamo. Era parecchio discolo. C'è un aneddoto che mi piace molto, di vari libri che ci stiamo letti, di Mozart che in viaggio in Italia vede Napoli, impazzisce per le sue sonorità, per le voci, bellezza, è sì. Il padre che cerca di trattenerlo, perché sennò questo va a infilarsi in meandri oscuri e pericolosissimi. Esatto. Ma lui è trascinato, travolto dalla bellezza, della musicalità di Napoli. Questa, per dirne una, no? Quando i nostri figli scappano che vogliono vedere qualcosa, ecco, Mozart è uguale, era uguale. E quindi è di buon auspicio, no? Magari esatto. Tanti geni in futuro. Un sogno, una, per così dire, inizia il programma, abbiamo una stagione davanti, non dico cosa ci aspettiamo, però sarebbe bello se... Sarebbe bello se tutti quanti, non dico solo i bambini e le bambine, ma dico anche gli adulti, si lasciassero un po' di zavorre dietro, un po' di necessità, ovvero delle cose, e ci riempissimo magari di qualcos'altro che magari l'immaginazione, ma soprattutto il desiderio, e non tanto l'ottenere di avere questo o quello, ma quanto di viversi la vita per la bellezza che è. Il teatro suggerisce questo, riempirsi l'anima di contenuti che sono ben oltre quello che è la materia, diciamo. Grazie Bruno e buona stagione. Buon lavoro. Another me, another time, and I'm living for the memories of the past, where my world seemed bright. Just take my hand and hold it for a while. I didn't want this, it's unbearable. imminente con l'open day, si procede poi con il programma di teatro Festoni, baracca ragazzi, varie sedi teatrali, la disponibilità di Bruno Cappaglia e i microfoni di Radio Città Fujiko. Come ben sapete, ci teniamo a coprire tutte le espressioni legate al teatro. Dopodiché il 9 ottobre la partenza con la partecipazione di Baracca Testoni Ragazzi al progetto di Marco Paolini Vajontes. L'ingresso è offerta libera e sarà interamente devoluto al sostegno delle zone della nostra regione colpite dall'alluvione, quindi una grande attenzione. Capisco anche la pluralità purtroppo di questi eventi con emergenza climatica. A breve avremo la pubblicità va un pochettino in ritardo, un po' spostata, in quanto vogliamo dare spazio equo per tutte gli approfondimenti legati al venerdì in scena sui 103.1. Quindi ci sentiamo tra pochissimo. Buon ascolto.